Amore, baciami, stai vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non ti ho amato mai così. Il mar, stasera appartiene a noi. La luna negli occhi tuoi, stasera mi fa sognare. Amore, baciami, stai vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non ti ho amato mai così. Amore, fermati, questa sera non andartene. Un'orchestra tra le nuvole, la tua canzone suonerà. Amore, baciami, stai vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non ti ho amato mai così. La luna negli occhi tuoi, stasera mi fa sognare. Amore, fermati, stai vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica. Amore, fermati, stai vicino ed accarezzami. Un'orchestra tra le nuvole, la tua canzone suonerà. Il mare, stasera appartiene a noi. La luna negli occhi tuoi, stasera mi fa sognare. Amore, fermati, stai vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così.